Si comincia! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Figuriamoci se avesse la cattiveria, sarebbe a 20 punti, quindi... Che cos'è un No, assolutamente, quindi la Juventus sta facendo un grande campionato, sta facendo bene, ecco, e le altre stanno facendo più fatica, ecco, rispetto agli anni precedenti. Cambia gioco Pepe, Pogba, si tromette sulla palla che forse non era per lui! Innanzitutto non commento, io mi va di parlare della Juventus di quest'anno e soprattutto non mi piace fare paragoni, non l'ho mai fatto in vita mia, figuriamoci se le faccio quest'anno. Per me, come per tutti i giocatori, per la società, per i tifosi, l'importante è arrivare all'obiettivo finale. Si sente lo scudetto in tasca, Allegri? No, assolutamente, no. Abbiamo 11 punti, mancano ancora tante partite. Bisogna fare un pezzettino alla volta, ci vuole molta calma nelle cose, molto equilibrio, è inutile affrettarsi, anche perché cioè, non è che possiamo giocare ogni giorno una partita. Ora, fino a sabato non giochiamo, quindi poi abbiamo la partita di Champions, campionato, poi avremo la Coppa Italia, insomma. Pronto, ma il campionato è il primo obiettivo, la Champions è un sogno, la Coppa Italia, vediamo se siamo bravi a ribaltare il risultato negativo che abbiamo fatto in casa. Dunque, Conte da una parte, Allegri dall'altra, lo scudetto in tasca, vabbè, la Juventus ce l'ha da un pezzo, più 11 che si legge più 12 sulla Roma per effetto dei confronti diretti, che poi vediamo se è la Roma ad essere la più brillante inseguitrice della Juventus, io non ne sono così convinto. Giorgio De Luca, nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia, Daniele Buonamici in redazione, Pardo arriva tra poco. Oggi c'è un hashtag, l'ho detto bene, che sta spopolando su Twitter. Dopo le parole di Conte, con me la Juventus avrebbe 20 punti in più. Embe. Con Conte Di Caprio avrebbe vinto 9 Oscar. Con Conte i lavori per l'Expo sarebbero finiti nel 2005. Con Conte avremmo fermato l'ISIS. Con Conte la gallina di Banderas farebbe i saccottini invece delle uova. Questi sono solo alcuni, ma poi vi tengo il conto. Poi vi tengo il conto. Non so se è un pizzico di invidia, un po' di presunzione, non lo so cosa possa agitare i sonni di Conte. Fatto sta che con Conte la Juventus un anno fa non era più in Champions League, con Allegri c'è ancora. Poi vediamo Dortmund, perché la partita di ieri sera nel solco delle ultime gare della Juventus ha cambiato soltanto quel magnifico destro di Pogba, niente altro. È stata una partita ripetitiva rispetto alle ultime, ovviamente c'è stata quella di Roma molto strana, che la Juventus ha controllato per poi addormentarsi, adagiarsi sul campo, stranamente, era molto molto strano onestamente nel finale di quella gara. Ieri sera questo colpo di Pogba nel finale di una partita nella quale, bisogna dirlo, Sassuolo era stato bravissimo, ma la Juventus era stata la solita Juventus, ha cambiato la classifica, non voglio dire in maniera definitiva, perché il definitivo c'era già, a mio parere. Ci sono altre cose a farvi sentire, ad esempio ieri impressionante è stata la Lazio, che ha asfaltato una Fiorentina bellissima, fin qui la miglior squadra del 2015, ma nella quale sarà stanca la Viola, però il germe, quel piccolo germe della presunzione esiste ancora. Allora sentiamo Pioli invece, una Lazio molto tedesca, una Lazio che in questo momento non perdona niente e nessuno. Noi, se sognare in grande significa affrontare, approcciare le prossime partite per cercare di vincerle tutte, sì, la nostra mentalità è questa e deve continuare. Dobbiamo continuare a ragionare così, ma solamente pensando di prepararci nel modo migliore per la prossima gara, che è difficile, che è complicata, e quindi pensare di fare più punti possibili da quella fine, e poi dopo, come spesso sto ripetendo in questi ultimi periodi, poi tireremo le somme alla fine. Questo era Pioli, anche lui vuole tirare le somme alla fine, e intanto le somme attuali, il cronometro parziale dice che la Lazio si è arrampicata al terzo posto a 4 punti dalla Roma, e io credo che di questo passo se la divorerà, magari insieme al Napoli. 800 24 00 24 è il numero verde, ma voglio farvi sentire un'altra cosa, altro giro, altro regalo. Mancini, che ieri a parlare hanno parlato in tanti, e poi vi faccio sentire pure Garcia più tardi, però Mancini che dice vabbè, quest'anno va così, anno può prossimo pensare di vincere lo scudetto? Scudetto, assolutamente, assolutamente, perché credo che quello che stiamo facendo adesso sarà sicuramente ottimo per il prossimo campionato, dove potremo lavorare comunque in preciso e tutto. Beh, giusto, no, che Mancini dica così, cioè è una dichiarazione di principio e Mancini ha ragione, l'Inter deve correre per lo scudetto, ma questo l'ha detto dal primo giorno in cui è arrivato e al netto del mercato. Aveva anche detto possiamo arrivare terzi, ma questo discorso è caduto un po' in desuetudine. Allora, voglio un'altra voce prima del traffico, 800 24 00 24. Oggi è un giorno pazzesco, questa notizia che avete sentito anche nei giornali radio. La tragedia che ha colpito lo sport francese mi ha lasciato letteralmente basito. È morta Camille Muffat, magnifica nuotatrice, medaglia d'oro ai 400 stile libero di Londra, grande avversaria di Federica Pellegrini. Si era ritirato ormai a 25 anni, ha detto non voglio più gareggiare, adesso mi prendo le vacanze. È andata con altri sportivi francesi in Argentina per un reality, incidente aereo in elicottero, ed è morta lei, è morto Alexis Vasten, pugile, ed è morta Florence Arnaud, velista. Voglio farvi sentire invece cosa ha detto Briatore, uno che lo conosce bene, sull'incidente di Alonso. C'è stato un momento che lui ha perso un po' di memoria, è vero, ma è durata 2 giorni, 3 giorni, una botta così. Che poi la botta non è stata neanche una botta così drammatica. Io non so che filmati voi avete, ma io ho visto un filmato che oltretutto mi ha mandato Eccleston, che si vede che la botta non è così forte. La botta non è forte, però le cause sono ancora misteriose, e quello che si legge, che abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, è quantomeno preoccupante per la carriera di Fernando Alonso. Bene, adesso vi ho fatto un riassuntone vocale. Ci fermiamo per il traffico, poi approfondiamo i vari argomenti. 800 24 00 24. Con Conte c'è qualcos'altro? Con Conte? Me lo scrivi dopo, Giorgio De Luca? Hashtag con Conte stanno venendo fuori tra il popolo dei social di Twitter, delle cose meravigliose. Non abbiamo concesso niente. A me piace molto vincere 1-0, perché sono le partite sofferte, sono le partite che ti tengono alta la tensione, e dire ai ragazzi veramente sono stati molto bravi stasera. Tutti convocati. Juventus penso in questo momento abbia veramente qualcosa in più rispetto alle altre squadre dal punto di vista tecnico, tattico, di mentalità, di cattiveria, di concentrazione. Pensavo, ecco, che fosse un po' più combattuto questo campionato, invece per diversi motivi chi doveva comunque cercare di strappare lo scudetto alla Juventus ha trovato diverse difficoltà durante il percorso. Con Conte Krasic avrebbe vinto il pallone d'oro, poi ve ne do degli altri, hashtag con Conte. Massimo Gilletti, buongiorno, grazie, ciao Massimo. Buon pomeriggio, eccoci. Con Conte la Juventus avrebbe 20 punti in più, con Conte credo ci avete vinto il pallone d'oro, con Conte le galline di Banderas farebbero i saccottini e non le uova. Ce ne sono un sacco, eh. Oggi ci stiamo divertendo con questi tweet. Cos'è? Vabbè. Invidia, ineleganza? No, ma vabbè, insomma, la vita di Antonio è questa, lui sa che è così, poi le frecciatine servono anche per tenere vivi giornalisti come noi, che possiamo raccontare e parlare. Poi io l'ho vista, l'ha detta in un modo diverso. Se tu prendi il virgolettato dei giornali, sembra che abbia detto con me sarebbe stata così. Lui in realtà ha detto se avesse pure la cattiveria avrebbe 20 punti in più. Non ha detto esattamente con la mia cattiveria 20 punti in più di vantaggio, che può darsi che invece magari il rapporto fosse logoro e oggi staremmo qui a trovare una situazione diversa, ecco. Quindi per me lui ha detto una cosa vera, questa Juve non ha la sua cattiveria. Sì, però ha magari un po' più di serenità. Io non credo che si possa vivere sul filo dei nervi per più di 3 anni, ma questo vale per lui e vale per altri grandi allenatori. Ma secondo me sono degli allenatori come Mourinho che fanno 3 anni, poi esatto, se ne vanno, bravo, spremono, tirano, esatto, e questo può essere una valutazione giusta, sì. Allegri secondo me è stato molto intelligente, è entrato in una squadra, oggi nessuno avrebbe detto a luglio che la Juve sarebbe stata in queste condizioni, secondo me se a luglio girate più 11 sulla Roma ci avrebbero riso dietro. Sì, certo, più 11 che si legge più 12. Quindi per effetto dei confronti diretti. Il merito di Allegri comunque che ha mantenuto un equilibrio difficile, perché l'eredità di Antonio era pazzesca, no? Certo, sappiamo tutti. Certo, certo, ma io continuo a dire che Allegri sta vivendo la stagione della sua consacrazione, poi vediamo come va in Europa, vediamo come finisce in campionato. L'anno scorso si è puntato troppo e in maniera un po' immotivata, magari non conoscendo Conte, però se uno la guarda dall'esterno, ok, c'è questo traguardo magnifico dei 102 punti, però poi lasci per strada l'Europa, lasci per strada anche una finale di Europa League giocata in casa, lasci per strada un sacco di cose. Però la Juventus di oggi è figlia di Conte. Sicuro. Cioè, ricordiamoci che quando è arrivato Conte la Juve dove era finita. Il grande lavoro che ha fatto Conte è quello di dare mentalmente una diversa collocazione proprio a questi ragazzi, fargli capire che la Juve, per la Juve è normale vincere, è anormale pareggiare. Questo è Conte che l'ha portata, quindi un DNA che loro in 3 anni hanno assorbito. Poi è sempre complicato resistere agli urti della vita, perché Antonio ne manda molti più urti. Sì, certamente. Antonio Giletti, si è preoccupato invece per la Champions League? Non è stata una Juventus brillante nemmeno ieri. Cioè, il destro di Pogba ha fatto la differenza netta tra questa partita e le ultime, ma c'è stata solo quella differenza. Ma la partita di, secondo me la Juve gioca una partita tipo quella che ha fatto a Roma, un conto è dover aspettare e ripartire, un conto è fare la partita come l'ha dovuta fare, la deve fare ovviamente quando giochi col Sassuolo, con la paura di prendere un gol in contropiede, perché Zaza e gli altri sono molto tecnici, Sansone velocissimi, quindi c'era anche, ogni singola partita fa una storia a sé. Io penso una cosa, però vorrei vedere dei cambi come quello di Pepe, nel senso che ci sono dei giocatori che sono assolutamente arrivati. Vidal è inguardabile, sì. Bisogna essere onesti, Vidal è inguardabile, allora perché non testare già sabato sera Turaro? A sì, quel punto hai uno che magari ha sicuramente meno qualità, ma combatte e pressa. In questo momento bisogna combattere, pressare e lottare, sì. Vidal non ce l'ha, sì. No, Vidal non ce l'ha, Marchisio è in netto calo, anche se giocano sempre gli stessi. Marchisio ha tenuto in piedi fino adesso, è stato il più continuo nel centrocampo della Juventus, Pirlo è infortunato, Pogba comunque va a corrente alternata, ieri ha avuto questa scintilla, ma non sta giocando uno spicchio di stagione particolarmente. No, ma brillante. Infatti hai ragione, è preoccupante la situazione anche psicologica, però io credo al di là di tutto, no, che ogni partita fa storia davvero. Quindi lassù a Dortmund faremo una partita di ripartenza, in teoria la Juve non lascia spazi, dovrebbe essere chiusa. Vediamo, quello che succederà lo saprà solo. Sì, credo che quella sarà la cartina al tornasole del momento della Juventus, perché non è facile, sai, nemmeno vivere un campionato che sai benissimo, inconsciamente, non lo puoi dire che è già chiuso, ci sono quegli altri che si sono impantanati in maniera clamorosa. Quindi io credo anche che questo momento della Juventus in campionato sia un po' figlio di un torneo che è già finito, un po' la sindrome del Bayern Monaco che vince lo scudetto a marzo. Sarà che ne ho perso uno a 8, con 8 punti di vantaggio, sembra 4 giornate alla fine. Non lo so, questi campionati italiani sono sempre molto strani. Certamente tutto dipende da quello che succede il 18 marzo. Sì. Però aver giocato un anno senza Barzagli, che è stato il più forte difensore italiano negli ultimi 3 anni. Insomma, recuperarlo sarebbe davvero decisivo. Sì, ieri sera l'abbiamo rivisto, in campo, sorridente, qualche minuto, ha risolto un sacco di problemi, magari viene buono nel momento cruciale della stagione europea. Stagione europea. Vedremo. Grazie Max. Ciao Massimo Giletti. 800 24 00 24, con Conte Manetti sarebbe uno sceicco arabo, con Conte avremmo già trovato l'acqua su Marte, con Conte ministro dell'economia più 20% di PIL. Hashtag con Conte, mi sto divertendo da morire. Gianluca, provincia di Monza, Brianza, con Conte? Sì, no, con Conte avremo 30 punti in più, ma eravamo già fuori dalla Champions League. Questo è il problema. Conte è un ottimo allenatore, ma forse lui non ha capito che per vincere i campionati in Italia basta battere le grandi con un livello fisico al 100%, ma con il Palermo, il Sassuolo, queste squadre piccole, non c'è bisogno di una Juve. Piccolissimo non è, Sassuolo sta giocando la stagione splendida. No, però ho capito, con le altre squadre che non siano la Roma, l'Inter. Non c'è bisogno di una Juve al 100%. E cosa è successo l'anno scorso? La Juve ha fatto 105 punti, il record, sì, ma in Champions League fisicamente era travolta. Io sono d'accordo, io voglio aggiungere anche in Europa League, perché secondo me quello è stato un peccato sportivamente mortale, cioè hai comunque un torneo con la finale in casa, cerchi una consacrazione europea, le avversarie che sono rimaste non sono Real Madrid, il Barcellona e il Chelsea, ma sono qualcosa di diverso, eppure ti arrendi al Benfica, non alzi quella coppa, non assumi una dimensione internazionale che avrebbe dato un senso a tutto quanto. Ma io infatti continuo a pensare che Conte abbia un po' sbagliato la gestione della scorsa stagione dal punto di vista della rotazione degli uomini, della priorità degli appuntamenti e degli impegni, perché quella oltre quota 100 era diventata un'ossessione. È vero, vale per gli almanacchi, per le statistiche, nessuno farà mai così tanti punti, è un record che resterà imbattuto nei secoli dei secoli, però fossi un tifoso della Juventus avrei preferito che lo vinciamo con 94, gestiamo i giocatori nell'ultima parte di campionato, una stagione finita, magari proviamo ad alzare quella coppa, l'Europa League intendo. Giovanni Bologna, buongiorno. Giovanni da Bologna, è caduto, ma con Conte il Carpi sarebbe in Champions, con Conte la Salerno-Reggio Calabria sarebbe finita. Beh, questa mi sembra tanto, De Luca. Con Conte la Salerno-Reggio Calabria sarebbe finita, mi sembra onestamente tanto. Con Conte l'America sarebbe stata scoperta 200 anni prima, invece su questo sono tendenzialmente d'accordo. Cosa possiamo far sentire ai nostri amici prima di fermarci per la borsa e poi di ricevere con tutti gli onori del caso per Luigi Pardo? Vogliamo far sentire un Lippi da ieri sera, ospite proprio di Pierluigi Pardo a Tiki Taka? Sì. Rispetto a quello che fanno la maggior parte degli allenatori che vanno in nazionale, ci arrivano dopo una carriera, lui ci è arrivato presto, è ancora molto fresco, ha vissuto questi 3 anni dove è riuscito a riportare alla Juventus una mentalità di ferocia, di grinta, di juventinità importante, ha vinto tutto e adesso si trova ad avere la squadra una volta ogni 3 mesi. Non è una cosa semplice, a 50 anni, 55 si ragiona in maniera diversa e lui ecco perché ogni tanto è così teso. Sì, tensione che magari trasmette la squadra, tensione che consuma la squadra. Allegri non è uno che manda tutti al bar dopo 5 minuti di allenamento, però è uno che sa gestire queste situazioni in maniera diversa da Conte e, lo ripeto, secondo me ha gestito fin qui la stagione della Juventus in maniera quasi perfetta. C'è poi chi vuole un'opinione, mi scrivono una mail, Maurizio Bustarsizio vuole un'opinione sul ritorno di Zeman a Cagliari, Zemaniano convinto, poi lo chiedo anche a Pardo, ma io continuo a pensare che il Cagliari abbia fatto un altro passo verso la retrocessione, perché tornare a Zeman a quest'ora mi sembra una cosa complicata. È evidente che ci sono dei contratti, che c'è questa moda ormai da anni degli allenatori con l'elastico, complice la crisi economica. Io sarei andato fino in fondo con Zoli in una stagione che comunque è nata abbastanza storta per il Cagliari. Gianfranco Verona, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire un attimino per dire, cioè, il calcio non è semplice come si pensa e così via. Prima di tutto, il pallone è rotondo e non è facile. Guardiamo la partita di ieri o l'altro ieri, che la Fiorentina si è beccata 4 gol ieri, va bene. Cioè, chi pensava che perdesse 4-0 contro una Lazio? Va bene, tutto qua. Lazio squadrone, attenzione. Non lo so. Guarda, adesso, in questo momento, 40 punti, 46 con il Napoli. È andata bene ieri, perché il primo gol, il secondo ha avuto un rigore, ma se il rigore non lo prende, cioè diciamo non glielo dà, non era facile. Ma comunque, ecco, 4-0 sono tanti. Ora voglio dire, Cagliari, Verona, Chievo, Juve, Curia. Purtroppo dobbiamo vedere chi c'è alle spalle della società, attenzione, della società, sia una società seria che può dare quel carattere maggiore per poter arrivare, per conto mio. Perché il pallone, essendo rotondo, ci può trovare, come ieri la Juve ha vinto 1-0, ragazzi, contro... Chi pensava 1-0? Io avrei detto 5-3-2-0, invece no. Anche Sassuolo è una squadra che può benissimo fare la sua ottima figura, come la sta facendo. Direi altro che Sassuolo, che ha vissuto un momento di recente di appannamento, ma sta facendo un campionato straordinario. Tra l'altro gioca a calcio anche molto bene. Ieri sera un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Poi è vero che il pallone è rotondo, il calcio è uno sport complicato, non si gioca con le mani ma con i piedi, può succedere di tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, con Conte a Caporetto avremmo vinto. Borsa, poi torniamo. L'atmosfera è bella, ma i bomboni non mancano mai. Si ricomincia. Tutti convocati. State divertendo come matti, con Conte ci sarebbero gli stage della nazionale. Vabbè, con Conte io avrei i capelli lunghi, ne dubito. Nemmeno con Conte. Dai ragazzi, fate i bravi. Intanto una dichiarazione che a Conte invece non piacerà, megalomania degli allenatori, è stato pubblicato il resto di questa intervista, cos'è, puntate a rate, questa intervista a Mazzarri viene pubblicata dal giornale giapponese World Soccer Digest a rate. Beh, la rata di oggi è: nessuno meglio di me negli ultimi 10 anni. Volevano a me le Jovetic, l'obiettivo massimo di questo campionato era il terzo posto, e devo dire che se me l'avessero consentito sono certo che tale traguardo non ci sarebbe sfuggito. Con Mazzarri, Inter al terzo posto. Diciamo un altro hashtag? Con Mazzarri, eh? Vai. Giovanni Bologna, buongiorno. Buongiorno, dunque io velocemente su Inzaghi, che secondo me finché il Milan ha gli stessi punti dell'Inter non viene licenziato. Sì, perché la situazione è profondamente diversa. Con Conte il Milan sarebbe primo in classifica, questo non ha ancora scritto nessuno. No, Conte il Milan lo voleva all'inizio della stagione, è un segreto di Pulcinella questo. Inzaghi non viene licenziato perché al Milan non si sa bene cosa fare, cioè non c'è una progettualità precisa. La squadra viene lasciata lì un po' allo sbando, un po' alla deriva. Si arriverà seguendo la corrente alla fine di questa stagione, però quello che dico io è che o prendi un allenatore adesso, prendi un allenatore progettuale, faccio un nome a caso, Spalletti, ma è il primo che mi viene in mente, poi fate quello che più vi piace, un allenatore alla Mancini, perché è chiaro che per l'Inter Mancini era un allenatore progettuale. Si è detto: Mazzarri non va bene, prendiamo subito questo, compriamo dei giocatori, rischiamo, perché l'Inter rischia se sta fuori dalle coppe, grossi guai a Chinatown, perché sapete che la situazione è disastrosa, ormai il terzo posto è troppo lontano per essere agganciato, però quella dal punto di vista calcistico era una scelta progettuale. Adesso sostituire Inzaghi con, faccio per dire, Brocchi, perché è il nome più gettonato, allenatore della primavera, cosa vorrebbe significare? Vorrebbe significare fare 5-6 punti in più da qui alla fine della stagione? Certamente non vorrebbe dire costruire qualcosa, perché io non credo che nei pensieri, nei piani, se ci sono pensieri e piani rossoneri, ci possa essere Brocchi come allenatore del futuro, cui fare un contratto di un anno e mezzo. Quindi non dimentichiamoci che il Milan continua a pagare profumatamente Clarence Seedorf. Dunque la sensazione è che si è deciso: va bene, arriviamo a motore spento fino alla fine della stagione, proviamo a salvare se possibile almeno la faccia. E quanto al futuro bisogna chiedere a Maroni, no? È stato rivelato da Silvio Berlusconi, però ha detto: non lo dico nemmeno sotto tortura, quindi lo sanno lui, Berlusconi, non so se Galliani, magari Barbara, però il futuro non è molto chiaro. Antonio Pisa, buongiorno. Buongiorno, io proprio del Milan volevo parlare, perché credo di avere così un'idea di spiegazione di come mai vada così male volevo sapere appunto il tuo parere, che in parte comunque hai già dato. E cioè, io penso appunto Allegri, che l'anno scorso sembrava il primo cretino messo lì perché il Milan giocava veramente male prima che lui fosse cacciato, aveva sempre giocato bene prima e sta dimostrando ancora ora di essere un ottimo allenatore. Quindi io penso che anche dire la rosa è scarsa, è vero che la rosa è scarsa, ma non così scarsa da non avere un gioco. Io penso che se non ha un gioco, se gioca così male, non è tanto colpa di Inzaghi, anche se lui fa i suoi errori sicuramente. Mi pare ci stia capendo pochino, Sì, ci sta capendo pochino perché gioca effettivamente male, ma anche Allegri sembrava capirci pochino l'anno scorso, allo stesso punto. Il motivo è che la squadra appunto non c'è una società che dirige, cioè sono tutti abbandonati a loro stessi, non si sa chi è il presidente, chi è il vicepresidente, chi fa che cosa. Un po' come succedeva all'Inter prima di che arrivasse... se non c'è chiarezza, non c'è chiarezza, e senza avere dietro le spalle il paravento, il muro solido della società, si va un po' allo sbando, un po' allo sbaraglio. Alla Lazio una società ce l'hanno, si chiama Claudio Lotito, ha costruito una squadra eccellente pur tra mille spifferi, bufere, dichiarazioni un po' così eccetera, e la Lazio io credo possa attentare in questo momento al secondo posto dei cugini. Occhio al cross, di nuovo possibilità per la squadra biancoceleste, ha liberato la difesa viola e poi il 3-gol, avanti la Lazio, il vantaggio con Lucas Biglia, secondo gol in campionato, 1-0 dopo 6 minuti. Felipe Anderson è agganciato ed è calcio di rigore, calcio di rigore. Il fischio di tagliamento, Candreva per il raddoppio della Lazio al 20° della ripresa. Ad andare dentro, Candreva fino in fondo, carica il destro, Neto, Klose, la schiaccia dentro, 3-0, settimo gol in campionato per Miro Klose. Keita, le sue quinte, va via, molto bene, Keita è solo davanti a Neto, che si oppone ancora una volta, Klose, di nuovo Neto, ancora Klose, 4-0. Ci stanno aiutando a migliorare la nostra classifica, è il nostro obiettivo, no? Pensare una partita alla volta. È chiaro che oggi eravamo di fronte a un avversario importante, a uno scontro diretto, e abbiamo meritato, giocando credo un bel calcio, vivace, pieni di soluzioni, rischiando anche poco. Quindi è una partita importante, 3 punti importanti, però siamo sempre lì, la classifica è molto corta, quindi dobbiamo pensare solamente alla prossima gara. La Lazio si accende sul campo, Pioli usa l'idrante come è solito fare. Saluto e ringrazio Clemente Mimondi, direttore del TG5 Laziale Convinto. Buongiorno direttore. Ciao. Ciao, sgomberiamo subito il campo, pro o contro Lotito? Io sono proprio quello che ha salvato la Lazio dal fallimento, quindi giudico di volta in volta le attività della società. Non sono... io sono laziale, non sono lotitiano o cragnottiano, piuttosto che... mi pare che al di là delle polemiche che sono state fatte, sono dei buoni risultati su cui riflettere. E sarebbe molto meglio concentrare i nostri spottò verso gli avversari piuttosto che verso il presidente in questo momento. Ma io sono sempre stato d'accordo, tanto che ho sempre faticato a capire questa corrente anti-Lotito. Siccome sono sicuro di poter essere ritenuto equilibrato rispetto al giudizio, devo dire che Lotito ci ha messo anche del suo, nel senso che dal punto di vista caratteriale ogni essere umano ha il suo carattere, e quando ce l'ha generalmente non è buono, no? Sì. Vale anche per lui, vale anche per i tifosi che prima si sentivano più importanti, oggi un po' meno, ma la verità è che Lotito ha capito che non c'è squadra di calcio senza una tifoseria, e che poi al di là di chi è il gestore o il proprietario, le società di calcio sono dei tifosi, quindi Sì. Bisogna ragionare con molta... Non è una cosa banale basata su quante azioni si hanno. Sì, sì. No, ma sono... il calcio non può essere neanche... Lo dico io che ci lavoro in televisione, soltanto sì, televisione, è tutta un'altra cosa. Ad esempio io adoro andare allo stadio e non le guardo mai in televisione, nemmeno le partite in casa della Lazio, perché a me piace vedere anche quelli che corrono senza palla. Certamente. Perché altrimenti non capisco il gioco. No, ma è una delle più grandi bugie storiche, uno dei più grandi falsi storici, dire che la gente non va allo stadio perché ci sono le TV. Io ho sempre pensato così. Ma dipende da come vai a vedere la partita, sai. Io da ragazzino andavo a vedere la partita in uno stadio in cui, in una curva in cui, non so, 5.000 erano con le spalle voltate verso i tifosi. Sì, certo. Lo stadio è tutta un'altra, perché lo stadio è, ci sono dei liti, ci sono... gli scottò, ci sta, poi soprattutto questo vale soprattutto per gli sposi della Lazio e penso del Torino, no? Sì. Siamo società abituate a soffrire o per disastri paragonabili come quello di Superga, piuttosto che la brutta fine che hanno fatto via via tutti quanti i componenti o moltissimi dei componenti della brigata che, certo, nel 73-74 conquistò il primo scudetto, no? Certo, è certo. Una squadra alla fine di Maestrelli, Fuscalupi, insomma c'è molto dolore e c'è anche molto onore, no? Ma è una cosa da vivere laicamente. La Lazio è divertente perché raramente ti offre la possibilità, come ieri, di vedere una partita con la consapevolezza che è veramente molto molto più forte dell'avversario. Sì, questo sì. Posso chiederti un secondo di pazienza per il traffico e poi chiudiamo parlando proprio di campo e di una Lazio che a me ricorda, ieri facevo un paragone, se la Fiorentina è una squadra un po' brasiliana, un po' spagnola, bellissima, ma con dentro quel germe di presunzione che ieri, o di stanchezza, fatale, inevitabile, che ieri è un po' pagato, la Lazio a me sembra una squadra davvero molto tedesca al di là di Klose. Convocati. Direttore Clemente Mimun, questa Lazio andrà a soffiare il secondo posto della Roma? Sarebbe molto bello. Quello che mi interessa in questo momento è pensare che gran parte della rosa è composta da giocatori che hanno 20 o poco più, 20 anni o poco più, per cui ieri sera abbiamo finito con Cataldi, Anderson, De Vrij, Keita e Onazzi, avevamo in panchina Cavanda, che secondo me è un ottimo elemento e ci darà delle sorprese positive, e poi abbiamo, a parte i Primavera che sono bravi, abbiamo un tale che si chiama Tunkara, che sarà divertente vedere presto, perché è un altro campione che starà a valere in Italia e anche fuori. E non dimentichiamo Gentiletti, infortunato al pronti via, e a me sembrava un giocatore importante, non dimentichiamo Djordjevic. Ah, un bellissimo mix tra, come dire, giovanissimi, maturi e anche anziani, no? Sì, perché io penso che i ragazzi, i giovani avranno, per Cataldi con Mauri avrà di che imparare, no? Sì. Gli attaccanti con uno come Klose non possono, poi con un Klose come quello di ieri io sono stato abbastanza perplesso quando ho visto il rinnovo del contratto, perché temevo che fatto un mondiale il tedesco si spegnesse, no? Invece è veramente un tedesco a 360 gradi, non molla mai ed è anche molto umile, quindi si sta guadagnando la pagnotta e sono molto contento di essermi sbagliato. E non sta sbattendo dentro. Guarda, ti lascio all'ultima considerazione di Pierluigi Pardo che mi ha raggiunto. Sì. Buongiorno direttore, complimenti. Ciao. Ma devo dire che insomma, prima cosa, io credo che si debba oggi dire forte e chiaro che lo Tito sta facendo un grande lavoro. Si potrà avere ovviamente opinioni diverse su tutta una serie di altre questioni. Esiste un Lotito uomo di federazione ormai, esiste un Lotito che probabilmente ha commesso degli errori più duro nel rapporto con i tifosi, ma dal punto di vista tecnico sta costruendo una grande squadra. E poi c'è anche da dire che secondo me, l'abbiamo detto varie volte in questa stagione, un po' più sotto traccia, perché fino a qualche giorno fa la Lazio era un po' più sotto traccia, manca anche qualche punto, nel senso che nella prima parte della stagione un po' l'infortunio di Gentiletti doveva essere l'uomo che dava più quadratura a alla squadra, un po' la partenza, una partita incredibile persa a Genova dominando e perdendola 1-0, qualche volta anche con delle ingenuità, le partite perse contro Empoli e Cesena. Insomma, secondo me questa squadra potenzialmente, se si fosse svegliata un filo prima, oggi sarebbe una situazione ancora migliore. Guarda che anche ieri ha rischiato, con tutti i gol mangiati nel primo tempo, di specchiarsi un po' troppo. C'era gente che faceva l'ultimo passaggio quando era oramai a porta vuota, quindi abbiamo ancora delle cose da affinare, però anche qui mi ha sorpreso molto, Pioli si sta dimostrando un ottimo timoniere, quindi speriamo bene. L'importante è che questi ragazzi crescano e che si faccia sempre più uso anche dei giocatori che sono nel vivaio, perché noi abbiamo una risorsa formidabile e dobbiamo saperla usare, perché io francamente non trovo piacevole vedere formazioni con 11 stranieri, quindi a me vedere più italiani in campo mi fa molto piacere. A parità di rendimento non c'è alcun dubbio, e spesso avere una rosa di giocatori stranieri, te lo dicono anche i grandi allenatori, finisce per rappresentare quantomeno un problema in più, perché comunque è una complicazione in più dal punto di vista proprio dell'ambientamento. Lotito ha fatto una cosa che altri presidenti non hanno fatto, non ha venduto. Su Candreva c'erano offerte importanti e lui se ne è tenuto. Insomma, lui invece è andato a prendere Parolo. Ma infatti, guarda, pezzo, tieni conto che noi veniamo da una situazione 10 anni fa, la Lazio rischiava di scomparire dal calcio professionistico, quindi va dato merito a Lotito, va dato merito a Tale, che secondo me lavora benissimo, è un altro dal caratteraccio, ma era un giocatore tosto anche quando era in campo, quindi no, però provate a pensare alla resistenza che hanno avuto su Felipe Anderson, che l'anno scorso è stato un disastro. Sì, certo. Hanno retto botta, hanno tenuto botta, e secondo me è uno dei pochi top player che giocano adesso in Italia. Dal punto di vista del talento, sì. Grazie direttore. Grazie a voi. Buon divertimento, Calazio. Come stai, Pier? Bene. Grande mattinata a Pavia. Senti, con Conte. Cosa? Sto leggendo tutti i messaggi, avrei letto anche tu, no? Su Twitter, l'hashtag con Conte l'America sarebbe stata scoperta 200 anni prima, addirittura ce n'era uno: con Conte io avrei i capelli lunghi. Ma sì, insomma, diciamo che è stata un po' questa presa di posizione di ieri, non l'ho molto capito, nel senso che l'ho sentita e in effetti fa un po' ridere. Io penso, tornando alla parte tecnica, che Conte e Allegri, e ci hanno detto anche ieri sera Marcello Lippi di Chitaca, siano io certi, fatto sentire. Cioè, le loro due squadre appunto rappresentano lo spirito e proprio anche il carattere dei due allenatori. Conte è un uomo arrembante, è un martello, è uno che non si rilassa mai, e Allegri è un uomo più morbido da questo punto di vista. E quindi ha delle caratteristiche diverse. La sensazione è che la Juve andrà a Dama anche quest'anno senza grandi problemi. Poi si potrà discutere sul fatto che quest'anno la Juve ha delle avversarie, lo dico di numeri, meno pericolose, perché se la Roma avesse i punti dell'anno scorso, adesso ci sarebbe una lotta scudetto mostruosa, e anche il Napoli con qualche punto in più, insomma è un po' un ciapanolo, abbiamo detto mille volte, però tant'è, questa non è colpa quando, della Juventus, magari con Conte la Juve sarebbe esplosa perché è troppo stressata, no? E tra l'altro, insomma, io un piccolo appunto che ho fatto lo scorso anno a Conte è stata la gestione dell'Europa League, cioè secondo me sull'Europa League quell'ansia da record, quell'ansia da 100 punti dell'anno scorso era errore, nel senso che poi alla fine se fai 102 punti o ne fai 96, ma che cambia? Se alzi la coppa invece te cambia, altro che se te cambia. L'ho appena detto io, ma su questo punto abbiamo pari la stessa opinione. Dobbiamo fermarci per il traffico, ti recuperiamo subito dopo. C'è Antonio da Isernia e molti altri ascoltatori. 800240024, un numero verde. C'è anche Ancelotti in crisi, poi ne parliamo. È più bello so io, perché so bullo e bello e non truccato. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, rieccoci. Eccoci, arieccici. Senti, ma con una Lazio così, la Roma secondo posto non se lo porta più da casa. Non le verrà più consegnato, come direbbe Mughini, per diritto divino. Sicuramente no, ma questo concetto era già abbastanza chiaro. Poi è chiaro che la forza della Lazio in queste ultime giornate, le quattro vittorie consecutive, rendono tutto più complesso per la Roma. Ma la Roma, secondo me, è ancora padrona del suo destino. Il problema è che deve svegliarsi. E quello che succede da due mesi è una lenta, stanca ripetizione dello stesso partito, di una squadra che non punge, di una squadra che non soffre neanche tanto, perché ti ha detto che non soffre mai, o quasi mai, ma che non è... Ma secondo te resta favorita per il secondo posto o non lo è più? Secondo me quelle tre se la giocano alla pari. Il Napoli per me è la squadra che ha più talento offensivo. Da Roma, se riesce a recuperare la condizione della prima parte dell'anno, arriva seconda in carrozza, però se due cose non succedono, voglio dire, alla fine quella che sta meglio adesso è sicuramente la Lazio. Sì. Non dimentichiamoci che nelle ultime, togliendo le prime quattro giornate di campionato, perché devi togliere, vabbè, ok, è un giochino, però insomma, la Lazio ha fatto 5 punti più della Roma, perché la quattro giornate la Roma era 12, la Lazio era 3. Sì, aveva perso una partita incredibile col Genoa e poi un'altra con l'Udinese, per la quale comunque poteva fare qualcosa in più. La Roma sicuramente in queste ultime partite è appesantita dai tanti pareggi, però siccome in questo momento non ci sono i due punti ma ci sono i tre punti, quindi alla fine carta canta, no? Certo. Cioè, ma non si vedono neanche scintille di risveglio, capito? No, non si vedono assolutamente. Si vedono anche perché poi il vero paradosso della Roma è stato, forse sarebbe stato meglio perdere una partita o due, comincio a pensare che paradossalmente per bloccare dal punto di vista psicologico questa squadra, che poi ha fatto vedere anche di Lippi, che ha parlato ieri più di problema psicologico che di problema fisico, anche se io li vedo anche appesantiti, forse sarebbe stato quasi meglio prendere due sberle magari. Invece c'è stata sempre dal selfie di Totti in poi. Già quella era una partita un po' appesantita, no? Perché la prima tempo era stata dominata dalla Lazio, poi ha reagito con due colpi di genio di un grande giocatore, ma insomma non è che fosse già quella una buona Roma. Però se ti poi ricordi c'è stata Palermo, sì, ma no, ma se tu ti ricordi, dopo il derby abbiamo detto: ah beh, però questa può essere la scossa che risveglia la bella addormentata. Dopo la partita con la Juve, quell'ultimo quarto d'ora furente, schiumante, di rabbia, di ardore, ma magari questa può essere anche Rotterdam. Cioè, detto questo, insomma, di questi 8 pareggi delle ultime 10 partite, ce ne sono 3-4 che gridano veramente. Cioè, il pareggio in casa col Parma, il pareggio di Verona col Chievo, quelli sono proprio punti buttati, no? Sì, poi a Firenze puoi pareggiare, anche a Palermo puoi pareggiare. Non è che siano state tutte prestazioni, per il secondo posto sì, io mi ricordo come venne accolto per esempio il pareggio di Palermo, sicuramente si diceva la squadra non è all'altezza, ma facevo un paragone con la lotta per il primo posto, che ormai è un tema ampiamente superato. Quindi in questo momento rischia la Roma, deve svegliarsi. Poi insomma il mercato di gennaio è stato allucinante, cioè, la sensazione che qualcosa si sia rotto, però guarda, non è un mistero, né un segreto il fatto che per la Roma società sia determinante arrivare in Champions League, quindi credo sia quello il vero grande pensiero per tutti, certo, però la situazione della Roma necessita di una qualificazione in Champions League, proviamo a metterla così. Daniele, proprio da Roma, buongiorno. Buongiorno a te, senti, io ti ascolto tutti i giorni, volevo intervenire solo su una cosa che dicevano tutti quanti con l'allenatore della Juve, Conte qua, Conte là, Allegri, già era licenziato prima ancora di fare, invece alla fine sì, è vero che Conte dava queste scosse, ma quando aveva segnato dava in vantaggio, sennò prima era lì messo da una parte, dopo si svegliava, mentre invece io vedo che a oggi Conte era fuori da tutte le competizioni, aveva solo lo scudetto, se andavamo a vedere. E noi ancora, il nostro licenziato ancora sta in corsa per tutte e tre. Sì, beh, a quest'ora Conte era ancora... Su Allegri sfondi la porta aperta, mi ricordo perfettamente quest'estate, no? Un momento dello shock, mi ricordo quello che ho detto, le registrazioni, non voglio fare lo diciamo come si dice, quello col petto in fuori, però sicuramente quest'estate, quando Allegri è stato preso, c'era un brutto clima, ma Allegri, l'abbiamo ricordato, era un allenatore che aveva già vinto il campionato, era l'unico all'inizio dell'anno che Serie A. Di che stiamo parlando? Allegri è un bravo allenatore che è finito nella storia sbagliata, che è partita negli ultimi anni, tra l'altro separato in casa, perché aveva sicuramente l'amicizia e la stima di Galliani, meno quella di Berlusconi. Sappiamo, insomma, le critiche non sono state poche, per cui si è trovato in una situazione molto difficile. Sì. Alla Juve ha avuto un po' di vento in salita, ma durante il ritiro, qualche mugugno delle persone, qualche orfano di Conte, ma poi alla fine sta facendo molto bene. Sono d'accordo su quello, cioè la gestione di Allegri è la gestione più morbida, forse era l'unica gestione possibile dopo tre anni di martello, di logorio, di martello, capito? No, bisognava forse preservare un pochino la testa e i muscoli dei giocatori, e mi sembra che per ora stia andando bene. Poi i nodi arrivano, perché fare Social Dorfus, vediamo come va. Sì, secondo me sarà la cartina al tornasole delle condizioni della Juve, dai. Però mi sembra, insomma, ad oggi che stia facendo benissimo. Cosa ne pensi? Non saranno piaciute a Conte le dichiarazioni di Mazzarri, che è stata completata la seconda parte dell'intervista di cui avevamo già parlato? Viene pubblicata a puntate come un romanzo d'appendice. Sono il miglior allenatore degli ultimi 10 anni. Volevo Jovetic e Giaramena con me. Di sicuro saremmo arrivati all'obiettivo minimo, che era il terzo posto. Penso che Mazzarri dovrebbe venire a tutti i convocati. Però questo è utilizzo privato di mezzo pubblico, nel senso che chiaramente è un interesse di parte. No, io penso che il problema di Mazzarri sia solo uno, ed è la comunicazione. E queste dichiarazioni qui non lo aiutano. No, non lo aiuta, bravo, non lo aiuta. Mazzarri è un buon allenatore che ha fatto benissimo in questi anni. Io ci ho parlato recentemente, una bella lunga conversazione privata, che ha raccontato il suo punto di vista, mi ha raccontato un po' di cose, e devo dirti che secondo me ha parecchi elementi di ragione, insomma. Non è, io penso che sia un bravissimo allenatore, e per me, insomma, sarebbe assurdo che non avesse una nuova possibilità dopo la carriera che ha fatto. Ha fatto una carriera eccezionale fino all'anno scorso, e all'Inter ha fallito. Più per dal punto di vista dei mediatico, rapporti, certo, dei rapporti, che dal punto di vista tecnico. Noi sta facendo di più, siamo tutti d'accordo sul fatto che si intravedono dei segnali, tutto quello che volete, però con una squadra rafforzata molto sul mercato, anche grazie a Mancini, ma comunque con i soldi che la società ha speso, perché c'era Mancini in panchina e non sappiamo se li avrebbe spesi pure per Mazzarri, continua a stare dove stava con Mazzarri. Per cui, da un punto di vista strettamente logico, matematico, cartesiano, siamo. E Mazzarri avrebbe tante cose interessanti da dire, a patto però di non lanciare queste cose che poi veramente lo fanno diventare un hashtag, fanno in modo che venga sui social network. Non è il miglior allenatore degli ultimi 10 anni, Mazzarri. No. Assolutamente, è un buon allenatore che all'Inter ha fallito. Che ha fatto eccellenti stagioni a Napoli, e all'Inter ha fallito appunto più sul piano mediatico che non sul piano strettamente tecnico. Non dimentichiamoci che Mazzarri all'Inter non è che è arrivato dopo Mourinho, è arrivato dopo Stramaccioni, è arrivato dopo diverse storie sbagliate. Il peggior fallimento, risultati alla mano, dell'Inter di 10 anni. L'ha comunque riportato in Europa League con una stagione con alti e bassi. E quest'anno, insomma, era ancora in corsa per fare delle cose. Quindi, a tutto di vista, ripeto, se non è aritmetico e dei risultati, Mazzarri è andato male, ma non è stato catastrofico. Dal punto di vista dei rapporti è stato catastrofico, e sarebbe bello che ci raccontasse come stanno le cose. Lui in questo è molto onesto, nel senso che lui è uno che ti dice: io non sono un comunicatore, l'ha scritto anche nella sua autobiografia. È consapevole di avere dei limiti da questo punto di vista, però appunto per questo forse dovrebbe lavorarci sopra, insomma, perché è parte, del suo lavoro. Raffaele, Bologna, buongiorno. Allora, buongiorno a voi. Io volevo fare una domanda a lei e a Parma. Secondo voi, Mancini domenica ha visto Napoli-Inter o ha visto un'altra partita? In che senso? E perché? Perché allora Mancini dovrebbe ringraziare Sandandanovic, perché si è permesso ieri sul Corriere dello Sport di dire: potevamo anche vincere, abbiamo lasciato 2 punti a Napoli. Cioè, secondo me, dire un'eresia del genere, ha lasciato 2 punti a Napoli, che secondo me ne ha guadagnato uno. Non ci sono dubbi, però se posso interpretare, secondo me pare non l'ha rubato, dai. Ma no, Mancini ha fatto un discorso di mentalità. Mancini sta lavorando sulla mentalità dei tifosi e della squadra. Mancini ti dice che l'anno prossimo la squadra deve lottare per il titolo. voi ci credete, io penso che chiaramente deve essere l'ambizione, ma è dura. Cioè, oggi ma che me... non si permetta di dire che ha lasciato due punti a Napoli, la partita l'abbiamo vista tutti, se perdeva 3-4-0 non rubava niente il Napoli, ha fatto 70 minuti, ha fatto un pacco di tiri in porta, che deve ringraziare Zandandano. Però il calcio è questo, ha fatto 1-1, sì, si porta a casa un punto e se lo tiene stretto. Secondo me è un punto guadagnato che due rimessi, voglio dire. Però ha ragione Pardo, sta ragionando sulla testa, sta lavorando sulla testa dei tifosi e dei giocatori. Se guardiamo la partita con un occhio neutro dall'esterno, soprattutto per poi chiaramente 2-0 per il Napoli, è ovvio che l'Inter ha guadagnato un punto e il Napoli ne ha persi due. Ieri, ti posso dire molto banalmente, in scaletta c'era il blocco di trasmissione su Napoli-Inter e parlavo con il mio coordinatore Luca Budel, che facciamo, apriamo col Napoli o apriamo con l'Inter? Ho detto apriamo col Napoli perché mi sembra più notizia il fatto che il Napoli abbia buttato via una partita che sembrava già vinta, piuttosto è importante anche la reazione dell'Inter, però dal punto di vista secondo me della notizia, cioè della cosa che fa più scalpore, è che il Napoli l'ha buttata via, quindi io sono d'accordissimo con te, meritava di vincerla, però l'Inter ha avuto una grande reazione e Mancini, che è abituato a delle grandi storie, a delle grandi squadre e vuole lanciare dei segnali forti all'ambiente e alla squadra, dice questo, dice che una partita del genere, quando tu la pareggi contro il Napoli, devi negli ultimi 10 minuti trovare la forza per provare a vincere. Certo, questo è un lavoro sulla mentalità. È come dire l'anno prossimo vinciamo, lottiamo per vincere lo scudetto. È chiaro che è una dichiarazione di intenti, però se alleni l'Inter e alleni i tifosi dell'Inter, devi dire queste cose. Però è ovvio che quello è un punto di vista soggettivo, non pretendeva Mancini di fare l'analisi come se lavorasse per la Lega Sportiva e dovesse fare il commento della partita. Senti, scopriamo chi sarà il nuovo allenatore del Milan. Orre! Questa musichetta te lo fa già capire. Filippo Maria Ricci adesso sta per rivelarci a noi, alla Gazzetta dello Sport, che Carlo Ancelotti tornerà al Milan appena verrà esonerato con ignominia da quello, come si chiama, per dire alla Manenti, il presidente del Real? Sì, mi piace quello lì, presidente del Real. Il ser superiore. Come dice Emilio Butragueño. Però Filippo Maria Ricci non è il periodista de Portes de Motor. Claro. Che si intende della. Estuve con Jorge Lorenzo che della parla motoretas, della Tape Car, della Motoretas. Oggi ha terminato Lorenzo. La Motoretas. Come la troppo quel Ricci. La Motoretas, sì, è claro. La Motoretas. Ancelotti al Milan lo vedo benissimo. Arriva, no, di corsa. Sì, arrivato, carica tutto sulla station wagon e si ritrasferisce a Milanello, a casa sua, per ricominciare una nuova stagione di grandi trionfi. Allora, io dico una cosa. Rilancio, ieri ho scoperto questa cosa, che non è così, per distrazione non ci avevo fatto troppo caso. Che stasera gioca il Real Madrid e dovrebbe, salvo tracolli, dovrebbe passare ai quarti di finale. Dopodiché la prossima partita di Sensio per Real Madrid è tra 5 settimane. C'è tutto il tempo qua per recuperare. Tempo costa, eh. A Madrid il tempo è caro. Sì, c'è quel classico di mezzo che può essere un problemino. Perché se finisce male il 22 marzo, poi ne riparliamo. Però, insomma, Carlo ha avuto dei problemi, delle assenze eccessivamente gravi per quella che era una squadra già priva di equilibrio. Quando è venuto a mancare Modric, dopo anche James, la situazione è precipitata, insomma. Adesso però intanto stasera torna Modric e poi torna Sergio Ramos domenica, vediamo come va, se salva le penne al classico. Attenzione a questo Real Madrid. Attenzione. Se salva le penne, perché mi sembra che il Barcellona sia in uno stato perché di forma, perché se le brucia invece, ecco, se si brucia le penne al classico, il volatile o volubile Florentino potrebbe anche decidere di cambiare. Però il problema è questo, che se lui cambia l'allenatore rischia di bruciare anche quello nuovo. Ma adesso non avrebbe senso, dai. Esatto, dopo il classico, perché poi magari arriva un nuovo allenatore che ovviamente, se dovesse un cambio in corsa, dovrebbe essere Zidane. E magari si brucia in Champions, non funziona, insomma. Per cui no, io non corriamo troppo e vediamo il recupero di pedine fondamentali potrà aiutare Carletto. Vediamo stasera cosa succede con lo Schalke. Io e Pardo già vediamo Ancelotti alle prese con la colla e il pennello per fare quel tessuto, manca, l'uncinetto. Io sono di parte, mi manco. Ti manca? Io so che sta benissimo, ma gli auguro tutta la vita lì. Però mi piacerebbe, a parte che insomma, ieri Lippi ha detto che Zeman è una ricchezza per il calcio italiano e che è contento di vederlo in Serie A, ecco, quindi beh, puoi immaginare quanto che ricchezza sarebbe Ancelotti. È chiaro, questa è noi, no? Sarebbe uno spot per il calcio italiano, stiamo parlando di uno dei più grandi. Ecco. Noi siamo riusciti anche negli anni della crisi generazionale del nostro calcio, comunque ancora a cavarsela alla grande con gli allenatori, perché abbiamo un calcio che, pur essendo meno performante rispetto a quello spagnolo, a quello inglese negli ultimi anni, però almeno tatticamente è un calcio ancora molto complesso, ed è il motivo per il quale secondo me Benitez, che pure sta facendo un buon lavoro, qualche volta si incarta in Italia, perché comunque in Italia c'è l'allenatore avversario, sì, che sì, questo lo dicono tutti sempre, Simeone sempre lo ripete, è un'altra storia a livello, tecnico, a livello di scuola di allenatori, cioè, la Serie A è ancora molto molto competitiva. Poi il resto, ho letto pure che nella prima giornata la MLS ha fatto più spettatori della Serie A. Sì, ma lì sta la nuova il circo in città, è l'effetto circo in città, dai. Gli americani sono tanti. Vabbè, però cioè, l'altro giorno ho visto fare dei numeri a Oba Oba Mart. E allora? Che c'è? Cos'è? Vabbè, perché denigri Oba Oba? Ma ci abbiamo le però l'anno prossimo. Capito, siamo lì, stiamo con Kakà, Raul e il Duarte Piglia. Va bene tutto, però dai, ma questo dato mi ha lasciato piuttosto, mi ha fatto un po' male. Quando finisce l'effetto cerco in città facciamo due conti. Ragazzi, vi ringrazio. Filippo Maria Ricci. Un abbraccio. Ciao Pier. Ciao Pierino, grazie. Ciao. Io ho giusto un minuto per Fabrizio D'Ancona. Buongiorno, grazie per l'attesa. Niente, dottor Genta, l'aspetto perché parlare con voi è sempre una domanda. Troppo buono. Sempre più fantastici. Ogni anno siete sempre migliori. Come fate in Italia? Solo voi. Quattro concetti solo me li deve far dire. Dica. Allora, io sono juventino, allora a parte il fatto che Conte dovrebbe essere super parte, se non dovrebbe continuare a parlare della Juventus, sì, perché lui adesso, e questa è una cosa. Secondo, l'allenatore quando è bravo conta il 20%, quindi vanno in campo sempre i giocatori. Terzo, io dico questo, l'eliminazione dello scorso anno di Conte in Champions League e non aver vinto dopo per rimediare l'Europa League in casa è come se per me avesse azzerato tre scudetti. Sì, l'abbiamo detto anche noi moltissime volte. Allegri. Un'ultima cosa che non c'entra niente con il calcio ma con un altro sport. Super Tennis ieri faceva rivedere Italia-Kazakistan. Ma non si fanno rivedere le imprese del solito? O se devono far rivedere le disfatte pure? Ma è possibile. Beh, Fabrizio, quelle ho capito, però se uno Italia Kazakistan, ma fa vedere Federer, fa vedere Djokovic, ma guardi, giuro, su questo non possiamo fare nulla. Poi ci sono i cultori della materia che vogliono rivedere Italia Kazakistan, oppure banalmente una questione di diritti, oppure non so cosa dire, oppure c'è il telecomando e si guarda magari MTV. Oppure si va su internet, c'è l'hashtag con Conte. Magari ci torniamo domani, eh? Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Fernato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Ciao a tutti, anche a Conte. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale. Eccolo!